Non c'era più, o non gli andava di guardare giù, moriva un'altra stella. Noi, come roba, dolori pochi, sogni neanche un po', ci tenevamo. Qualcuno chiese dietro al buio cosa c'è. Con l'eclissi totale si scorda il sole, ci si dimentica un sorriso quando vale guardarsi un attimo di più. Sarà banale ma nei miei occhi ci sei tu. Con l'eclissi totale ha un po' d'amore. Ritornando lentamente a respirare, ci ritrovai da lì dove non l'avevo visto mai. Nasceva una terra, lasciai scordandomi l'età che riprendesse il volo poi più in là. Chissà, chissà perché cerchiamo sempre qualche cosa che non c'è. Con le crisi totale si scorda il sole, ci si dimentica un sorriso quando un po' d'amore e ritornare.